Oh, madonna, per un pompino quanto casino. Ma in questo paese non si può più neanche scopare, figurati tu, ma è una cosa... Un paese va a puttane e noi non possiamo scopare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Movimento 5 Stelle, caro Parenzo, cerca di cavalcare questa cosa degli appalti di Roma, della cupola, dell'estrema destra, di Alemanno, della sinistra in parte coinvolta per alcuni assessori, per alcuni esponenti, eccetera, eccetera, tutto quello che vi hanno vomitato addosso nelle ultime ore. E in che modo lo fa il Movimento 5 Stelle? Ti prego. Attraverso il suo, uno dei suoi... Tu sei in grado di interrompere, sì, come dire, una poesia. Sei in grado di interrompere qualsiasi cosa. Ho detto solo ti prego. Allora, i 5 Stelle dicono bisogna sciogliere il comune di Roma per mafia. Adesso va bene tutto, ma l'amministrazione Marino, uno può dire tutto il male possibile di Marino, no? Magari Roma è la uno schifo, quello che vuoi. Il dissesto delle strade. Ma non mi pare, non mi pare sia un, certo, covo di mafiosi, cioè almeno sì, forse due assessori sono indagati, poi bisogna vedere. Qui si è perso il senso della realtà. Siamo all'inizio di un'indagine pur gravissima, certamente, con intercettazioni che poi ascolteremo in parte o forse no. Ma insomma, di che stiamo parlando? Il comune di Roma sciolto per mafia, ma Di Battista e gli altri se ne inventassero un'altra, su dai, Di Battista. Noi chiediamo un incontro ufficiale al prefetto perché secondo il Movimento 5 Stelle il comune di Roma deve essere sciolto per mafia. A me spiace avere ragione, però io ieri, senza sapere nulla di questa inchiesta, avevo parlato del business degli immigrati, degli zingari, dei rom, eccetera, eccetera. Ed è proprio quello che è uscito fuori da questa inchiesta, caro Parenzo. Cioè, ci sono delle persone, dei gruppi di potere che fanno soldi più che con la droga, li fanno con gli immigrati, con i soldi dello Stato per gli immigrati, e questi gruppi di interesse, queste associazioni che lavorano, a fronte di associazioni che invece fanno benissimo, certo, il loro lavoro, non c'è dubbio, con pochi soldi e con volontari, certo, non hanno nessun interesse a risolvere queste questioni, anzi, da quello che esce fuori, portano gente a Roma. Cioè, a Roma dovevano venire meno persone, meno immigrati, e invece hanno, e sono riusciti a farlo, hanno portato a Roma migliaia e migliaia di immigrati che non dovevano venire a Roma, non dovevano andare a Roma, e l'hanno fatto per guadagnare dei quattrini. Dunque l'immigrazione, i rom sono una manna per un sacco di gente, sono una manna per alcuni farabutti. Beh, farabutti, associazioni, oh, eccetera eccetera. Ci sono alcune associazioni che fanno un lavoro degnissimo. Vabbè, degnissimo, e meno male che ci sono i volontari dell'Arci che ho conosciuto. Vabbè, a via Cesare Lombroso, Ferrara, a Roma. Fammi sentire, ma bisogna Ferrara. Far nomi però, ma di queste storie straordinarie. A Radio Popolare li fai, storie qua, no, straordinarie. Vai a Radio Popolare, a Radio Radicale, là. Di donne impegnate che stanno lì. Guarda, con un piccolo presidio, ma dentro tu lo sai questo che campo. mi hanno chiamato da Radio Popolare. Hanno detto che hanno bisogno di uno per fare un programma la sera, Radio Popolare. Vabbè, Ferrara. E hanno chiamato te. No, che me fanno? Non chiamano. Radio hanno chiamato me, fanno. uno che conosco per dire: ma Parenzo è libero. Radio Buonista, cosa vogliono fare? Ma che ne so, lo sa, vai a parlare. A Radio Popolare ti voglio. No, a Roma qui. Ferrara, a Roma ci sono ladruncoli. Questa inchiesta di Roma è pesante, sono stati... Sì, però è cronaca nera, sempre gli stessi ladruncoli, gli appalti. Ma ladruncoli, quello era il capo del NAR. Era roba forte, Banda della Magliana, sono brutti ambienti. Ma Banda della Magliana è finita 50 anni fa, 30 anni fa. Quando speriamo. Qualcuno mi dice sia fascisti, cioè sia gente che nel passato è stato di estrema destra, che COP. Certo, certo, assolutamente. Fascio comunisti uniti, siamo sempre alle indagini. Fascio comunisti uniti dagli affari e dai quattrini e dai quattrini. Soprattutto fatti con l'immigrazione. Uno poi si fa delle domande. Ma c'è qualcuno che non ha interesse a fermare l'immigrazione? Chissà perché. Ancora qualcosa sui rom, caro donne Parenzo. E uomini impegnati, involontari. Ma stai zitto un attimo. Nei campi, ancora donne e uomini. Va bene, ancora qualcosa sui rom. Ancora qualcosa sui rom. Viale Lombroso, signor Dragovic, sai, signor Dragovic, no? Quello là che. Dragovic, no, Dragovic, è la famiglia di rom che si è fatta fare la fotografia col presidente della regione Toscana. Come no, certo, sì, i signori Dragovic. Senti uno di questi cosa dice. Senti, e tu cosa fai nella vita? Faccio le limosine. Quanto riesci a guadagnare al giorno? Ora 5 euro, 10 euro, 7, 8, 9. Chiaro? Vabbè, certo. Chiaro? Certo. Ma certo cosa? Ma non certo posso che... neanche fare l'elemosina. Io stasera ti spiegherò una cosa, guarda. Vabbè, c'è tempo. L'economia fermo, c'è parallela tempo. Che loro riescono c'è a tempo, creare c'è l'economia del parallela. Mercato delle pulci che loro creano e fanno. Vabbè, ma tu sei completamente una ormai piccola ormai economia sei andato, ormai fuori sei andato. Dai grandi circuiti. Ormai no? Sei andato, amico mio, sei andato, sei andato. Ormai sei partito, sei andato, sei andato. Oh, che c'è da dire sulla foto di Salvini? Qualcosa? Ah sì, Salvini stesso che parla, eh. Salvini stesso sulla foto. Che dice Salvini sulla foto? Il fisico cadente. Salvini a nudo sulla copertina di oggi, fa ancora discutere. Io mi diverto molto più a parlare di Salvini che di questa rottura di cazzo di Roma Capitale, la mafia, sì, le indagini in corso. Beh, sono indagini. La cosa, ma sì, è molto grossa, ma sono indagini, amico mio, indagini. Ho capito, però ragazzi, mafia, appalti, robe, sì, cioè, sì, non è proprio una roba da vai, ridere. Ho il fisico cadente, vai, Salvini. Questa è una novità assoluta, no? Chiedo c'ha scusa, un po' siamo in fascia protetta. Vabbè, non il si fisico vede è cadente, quindi il fisico non è cadente, ma non punto a prendere i voti per la qualità fisica che è assolutamente scadente, però rido di me stesso. Paragone con Bossi. Questo è Umberto Bossi del 1994. Sicuramente più tonico di me. Non tanto, però è cambiata la Lega da allora, no? All'epoca c'era la canottiera, adesso è lei cambiata. È cambiato Bossi, è cambiata anche perché l'emergenza in questo momento è nazionale. Poi dice lavoro 18 ore al giorno, ma più interessante è la Boschi, che dice non si capisce perché imbarazzanti le foto di Salvini, più imbarazzanti le foto di Salvini di quelle di Rossi coi Rom. Un paragone che non capisco perché si fa questo. Ah, perché la Lega ha criticato le foto di Rossi, allora dice più imbarazzanti le foto di Salvini. Il presidente della Toscana Rossi, adesso è stato sommerso da attacchi per questa foto su Facebook. Lo ritrae con i suoi vicini di casa, una famiglia rom, no? Ha avuto anche attacchi durissimi da parte di Salvini. È una foto che imbarazza il PD per averlo difeso zero, niente solidarietà. Forse è più imbarazzante, Rossi. Sono più imbarazzanti le ultime foto di Salvini, insomma, forse se c'è qualcuno che sulle foto in questo momento non dovrebbe fare commenti. Salvini, lei fa riferimento alla copertina di oggi. Oh, eccolo qui. Però al netto, Salvini desnudo. Siete prontissimi. Vabbè. Siete prontissimi, era tutto preparato, dai, su. Va bene, io però sono curioso di sapere da una persona che insomma che ne sa anche di comunicazione e non solo, quali sono state le sensazioni di fronte a questa copertina di un settimanale importante come oggi, insomma il Salvini desnudo. Nessuno ci aveva pensato, cioè Salvini ormai è in tutte le salse, nessuno ha pensato di metterlo a nudo. Ci hanno pensato, devo dire, bravi quelli di oggi, no? Perché bravi, comunque sì. Bisogna farsi venire comunque un'idea, no? Oggettivamente. Vladimir, come stai? Vladimir Luxuria. Vladimir. Bene, grazie. Vladimir. Allora, Vladimir, come allora dice prima Ferrara. Ti faccio Vladimir. Sentire Ferrara quello che ha detto da noi nei giorni scorsi su di te, Già Vladimir. Lo so. Te lo faccio riascoltare così godi un po'. Godi poi, sai, Ferrara, ma comunque. Zuri è una persona adorabile, io la ebbi a 8:30 e tra l'altro la chiamai Vladimir e lei mi disse, o lui mi disse grazie, sei l'unico che pronuncia bene il mio nome, perché da piccolo starò a morire. Però a te i trans non piacciono tanto, si tra... Vladimir, come non mi piace, mi piacciono da morire. I trans no, anche da morire, mi eccitano anche. Ma no, non è vero, ma vai, Giulia, ma non è vero. Ma non è vero. Ma stai scherzando, ma la sola idea di un transessuale è eccitante, basta è come una didascalia, transessuale. È una cosa meravigliosa, l'ermafrodito, è una cosa stupenda. Ma te l'aspettavi questa cosa da Ferrara, Vladimir? Ma no, posso dire una cosa? Sembra in Italia che le trans non piacciono a nessuno. Dici, no, cioè, ma come sembra, no? Ma hai riesci facilmente a trovare qualcuno che ti dice, oh, sono stata con una trans e mi è piaciuto? No, quello no. In trasmissione? No, ufficialmente. Capito? C'è. Sono tutti fantasmi, le persone che vengono con le transessuali sono fantasmi, che appaiono, si incarnano nel momento della goduria e poi non esistono. Io mai, è vero, io è mai vero. Fatto, capito? Io no, manco con un dito. Allora, cioè... viva Dio, uno che invece ci mette la faccia e dice sia vero o non sia vero, le trans mi eccitano, bravo Ferrara, anzi gliela darò a Ferrara ad avercela. No vabbè, scusami Vladimir, adesso abbia... non credo che Ferrara abbia... dice che è monogamo, innanzitutto io gli ho detto la monogamia è una malattia, vabbè ognuno ha le sue malattie, sai, no? Io, per me è una malattia la monogamia, penso anche per te, non lo so, credo. Io non posso, cioè non sono monogama perché non ho la materia prima, cioè un fidanzato. Vabbè, ma che c'è, se ce l'avessi saresti monogamo lo stesso o no? È che ne so, io non posso mai giudicare se, cioè nel momento in cui sono innamorata, non lo so come mi comporterei. Comunque, certo, non sono una che sta che a giudicare, cioè non sei nemmeno, non sei un'acqua cheta comunque. No. Ma il tradimento bisogna accettarlo, bisogna accettare i tradimenti in maniera tranquilla, normale, perché il tradimento è una questione è lo spirito che conta, non è la carne, cioè si può tradire carnalmente, ma il tradimento... Ma non capisco perché uno gli piace essere cornuto, guarda. Mettiti nei panni di una, soprattutto se lo scopre. Soprattutto se lo scopre, non credo che ci resta così bene, anche se solo la carne. Appunto, questo non c'è dubbio. Bravo, questo non c'è dubbio. Ma ci vuole però un accordo tra le persone. Se di c'è un accordo un agreement. Un agreement, certo, se uno fa il buffone, l'ipocrita, no. Senti, però io ti ho chiamato per Salvini. Che sensazione hai provato di fronte a quella copertina? Allora, io qui parlo non del Salvini politico, anche se devo registrare che è una novità assoluta, è la prima volta, credo, al mondo che il segretario di un partito posa seminudo per un giornale. Si aveva fatto Sgarbi tanti anni fa, ma non era segretario di un partito, era deputato. Lui è un segretario di un partito, tra l'altro di un partito in forte ascesa, quindi lo fece Benetton, ma non era politico. È un fatto. Questo. Quindi io giudico l'uomo Salvini, l'uomo Nordenthal, potrei dire. Perché posso dire una cosa? Sì, ecco tutto, finalmente, quindi. Ma finalmente io sono stufa di queste copertine, di questi uomini che hanno le sopracciglia ad ala di gabbiano che neanche Jonathan Livingston, manco Moira Orfei, visto che parlavate di Rom. Sono stufa di questi che hanno i muscoli scolpiti, che quando fanno sesso con te, invece di pensare di farti godere, si devono guardare allo specchio quanto il loro muscolo si sta contraendo. Questi che arrivano a casa tua, la prima cosa che ti fanno, che non ti rubano la virginità, ma ti rubano le creme della bellezza. Cioè, basta con questi metrosexual. Viva Salvini retrosexual, con tutti i suoi peli, i suoi cespugli sotto le ascelle e anche quei chili in più. Anzi, se posso dire una cosa a Salvini, sì. Salvini, non andare in palestra, mi diventi come Beckham, mi diventi come tutti gli altri, un po' di panza, un po' di barba trasandata, fa maschio, va bene. Applausi per questa cosa. Allora, sono uomo di panza, uomo no, di sostanza. No, ma non è tanto uomo di panza, uomo di sostanza. Sono d'accordo, come al solito, al 200% con Vladimir Luxuria. Sì, chi dice no i peli, ieri Lori del Santo è venuto da noi a dire i peli sotto le ascelle non si possono guardare. Ma quando mai? È proprio la dimostrazione che questa foto qua è stata fatta in maniera spontanea, senza guardare queste cose, i peli sul petto, un po' di ciccia. Esatto, noi ci ricordiamo la calza sulla telecamera di Berlusconi, Giorgia Meloni sui poster photoshoppata che sembrava la nipotina di Giorgia Meloni, cioè tutti stanno lì a ritoccare le immagini eccetera eccetera. Oh, lui si è messa a nudo, ha fatto vedere i chili in più, ha fatto vedere i peli sotto le ascelle, ma viva Dio, va bene. Beh, va grande bene. Accordo, Vladimir Luxuria Salvini, dopo il traffico ci spiegherei però il significato di retrosexual, perché io ero rimasto a metrosexual. No, c'è anche il retrosexual. E adesso lo spieghiamo. Traffico veicolare. La zanzara. Vladimir Luxuria, piace dunque la foto di Salvini, caro Parenzo, fatta in una ragione, tu che l'hai criticato ieri, non si fa così un leader. Capisco l'estetica di Vladimir, quello che è vero dal punto di vista estetico e non politico. Dal punto di vista politico secondo me è un gol clamoroso. Ma perché autogol? Perché l'elettorato di Salvini gli piace vedere Salvini in quei contesti con Ruspanti. Ma Salvini già andava con le magliette, scusa Vladimir, meglio nudo che con le felpe o no? Ma questo adesso non lo so, perché nudo non l'ho visto, quindi adesso non manca so. La parte sotto, dice. Diciamo che la prova che la Lega ce l'ha duro ancora non l'abbiamo avuta. Questa dal è punto buona, di vista però. Fotografico. Questa è buona. Se proprio dopo la critica tutto Salvini è che se fa 30 deve fa 40, quindi la prossima volta tu completamente nudo insieme a uno di colore, sì. Così vediamo chi fa bella. L'hanno fatto. No, l'hanno tira. Fatto un foto, non l'hai visto? Me l'hanno sì, mandato via Twitter, un fotomontaggio. Sì, certo. Mandingo è sempre la radio della Confindustria, però questo ci tengo. Salvini e Balotelli, sì, vediamo chi vince, dice, deve fare ha fatto 30, facesse 31, insomma, Salvini. Sì, ecco, senti una cosa, ma retrosexual che vuol dire? Allora, retrosexual è il contrario di metrosexual. Ah, ho capito. Metrosexual è quello tutto precisivo alla Beckham. Si depilano, sì. I peli li devi rivolgerti al WWF per trovarli, perché se sono tolti tutto, capito? Che sollicci, che poi Giuseppe, quando si depilano, sì, appena depilati, ancora sollisce, eccetera. Il problema è quando cominciano a uscire questi spuntoni, ti fanno questo effetto scrubbing che sembra che lo stato con un gatto. Cioè, quando fai sesso è un dramma. Perché ti graffiano completamente, perché c'è tutti i cule, insomma, che escono fuori di porici. No, ma è vero, guarda, io non mi sono mai depilato, per esempio. Qualcuno mi dice depilati. Tu sei un retrosexo. Il mio amico Salvini, come si chiama? Paolo Ruffini, mi dice: ma depilati, io mi depilo. Perché depilandoti, praticamente dice che si vede meglio tutto, è più, come dire, tutto sì, più. Ottico che sembra più grande, ma di che stiamo a parlare? Dai, su, cioè, Parenzo, per esempio, si depila. Io non capisco perché, ma si depila. Confessalo, si depili? Ti depili? Ti dico di no, ma se vuoi, ti dico di sì, ma ne assicuro di no. Beh, per esempio, Vladimir si depila sicuramente perché è per forza. Altrimenti... Vabbè, ma che c'entra? Io, amore, se no sembra che ho le calze di Filanga pure d'estate. Che c'entra? Sempre la radio della Confindustria, 18:53. No, sempre, no, ma io lo ripeto sempre. Perché, sai, in una giornata come oggi, in cui comunque. Comunque sono accadute delle cose, scontri a Roma sul Jobs Act, la vicenda di Roma. Non lo dico a te, lo sto ricordando al conducatore signor Cruciani, che immagino signor Squinzi. Ma io mi diverto molto più con queste cose che parlare di cose che riguardano la magistratura, le indagini. Cosa vuoi che ti dica su Roma? Ci sono le indagini in corso. Renzi all'attacco della Lega, la battaglia in Europa, la questioni europee, Juncker. No, i peli di Salvini. Andiamo avanti, dai, va bene. Senti un attimo, tu te la faresti una storia con Salvini, Vladimir? Eccala. Ma guarda, se non fosse Salvini, mettiamo che non sia Salvini. Ma devo dire, cioè, non è mica un uomo da buttare via. In una notte di freddo e di tempesta, se uno ti bussa a casa tua e ti chiede un po' di calore, ragazzi. Vabbè, adesso lo stai come dire come un reietto. Quando poveraccio. Manca, poveraccio. Cioè, è un bel ragazzo, Matteo. Nel panorama dei politici su. Che non è che offrono il massimo, è uno di quelli un po' commestibili. Ma dai, sì, dai. Su, lei ma... ti sta dicendo che dopo una certa ora ci sono i saldi di fine stagione. Ma sì, certo, ma tesoro mio, perché Parenzo, tu non c'hai mai avuto i momenti di crisi che no. Dai, ma che mai Parenzo pure... non è mai andato in saldo, è sempre stato un brand altissimo. Io sì, ho fatto un sacco di saldi. Io ho fatto allora un sacco. Io invece ho fatto tanta. Ma noi siamo molto simili. Io pure ho fatto tantissima generosità, tantissima generosità, momenti di saldo in cui uno dice vabbè, quello che c'è, diciamo, no? Esatto. Quello... Certo. Ma sì, ma non bisogna fare troppo gli schizzinosi. Parenzo sta sempre lì a fare tic tic no, da questo tic qua tic tic tic. Posso dire una cosa, spesso gli uomini ipercurati, quelli metrosexual così, poi a livello di performance sessuale danno meno soddisfazioni di questi uomini che hanno un po' di setta, un po' di peli in più e che quindi consci che devono dare qualcosa in più al letto, la loro performance è migliore. Sì, per cui Salvini... Ragazzi, fatevelo dire da una che... Per cui Salvini lascia presagire grandi performance da questo punto di vista. No, questo non lo so, non metterei mai ma la tu mano ce l'avresti, modo su niente. Ma tu te la faresti la storia con un rom, per esempio, o no? Ti attira un rom? Ma Dimmi la verità, nient'altro che la verità, oppure te fanno proprio dipende, schifo? Dipende, no, no, se è uno carino, pulito, cioè va bene, cioè perché no? Perché cioè, no, i rom bellissimi anche. Beh sì, esteticamente di, sono, faccia, no, di faccia spesso non sono male, poi no, magari... No, certo, uno che magari, no, cioè, è bello, se uno è bello... Perché no? Cioè può essere rom, non può essere rom. Vabbè, io voglio Vladimir Luxuria. Ma non è il momento per un gay al Quirinale, adesso che si parla di Quirinale? Sono troppo giovane ancora. No, tu caso. No, ma un gay al Quirinale? Sarebbe il massimo, eh? No, una trans. Ho detto, ma una trans è meglio, perché il passaggio subito a una donna è troppo scioccante per gli italiani. Ah, prima il trans, beh, grandissimo. Sì. Ciao, a presto, ciao, ciao. Ciao. Secondo me la sua trasmissione dura un po' troppo, 2 ore e un quarto. Mi sembra strano. La Zanzara. Viva Dio, uno che invece ci mette la faccia e dice sia vero o non sia vero, le trans mi eccitano. Bravo Ferrara. Anzi, gliela darò a Ferrara ad avercela. Solo alla Zanzara potete ascoltare queste cose, caro Parenzo. Solo senza qui. Dubbio. Solo qui. Ti prego. Chissà se è d'accordo il nostro amico che dice ti prego, ti prego. Ti prego. Tu lo dici meglio, però, ti prego. Devo dire che tu lo dici meglio, ti prego. Ti prego. Sai che mi hanno detto che l'autore, lasciamolo nell'anonimato, tutti sanno chi è, ovviamente i nostri ascoltatori. Beh, no, i nostri ascoltatori sanno chi è, però chi ha pronunciato questa frase, cioè ti prego, che tu dici molto meglio, sì, in realtà è conosciuto, è sì, conosciuto per un'altra frase. Ah. Cioè viene preso in giro per un'altra frase. Ovviamente lo diciamo con grandissimo affetto, anche perché sì, insomma, no, è un grande difensore dei nostri scherzi sì, radiofonici. Sì, esatto, esatto, esatto. Che sono stati, ripeto, sdoganati, assolti dai tribunali, dai scusami, sobrietà, sobrietà, tu quando devi risparmiare dei soldi quando non sei colpito nel portafoglio sai, esulti dai tribunali, assolti, calma, di calma, chiedo scusa non è da Confindustria, effettivamente chiedo scusa è conosciuto, ti stavo dicendo per un'altra cosa, per un'altra espressione che usa. Adesso fra poco me la faccio dire da Andro, dimmi quale diavolo di espressione usa il nostro amico grandissimo, oltre a ti prego. Allora, ti faccio ascoltare un meraviglioso litigio. Beh, amico mio, amico mio, siamo veramente al top qui, siamo veramente al top. Tra l'altro ho una maglietta qui che mi è stata regalata da Paolo Ruffini, che tutti Paolo possono Ruffini, vedere. Non il direttore dei TV Sa 2000. No, molto meglio, Paolo Ruffini, con tutto l'attore, rispetto per il signore. Attore, nostro amico, mi ha regalato una maglietta, ce n'è una anche per te. Sì? Siamo al top. Ecco, vabbè, qua, la scritta siamo al top, fatta da lui. Ovviamente riesce a fare lui le magliette prima della radio, capito? Sì, cioè le idee che vengono. È curioso, sì. È curioso. Prima però vedono in tasca i diritti anche lui, ma le nostre che, magliette. Magari in tasca pure i soldi, capito? Beh, cioè siamo al top, espressione tirata fuori da Parenzo, sì, viene realizzata in maglietta da Paolo Ruffini. Chiudiamo questa penosa parentesi e andiamo con Buonanno, il quale è stato inserito, caro Parenzo, da un giornale inglese, credo il Times, se non sbaglio, tra i politici più pazzi d'Europa. Cioè ci sono 10 politici. Vedi. Sì, però the craziest politici, dicono. C'è i politici Boris Johnson anche. No, non lo so, c'è un elenco, vai a vedere. I politici più pazzi in Europa Farage, c'è forse. Sì, forse c'è Farage, non mi ricordo chi c'è. E tra questi però l'unico italiano è Buonanno. Devo dire che però è un genio da questo punto di vista. Tu puoi dire tutto tranne a che a voi piace un mondo così? A voi piace un mondo così dove Buonanno finisce sulle riviste internazionali? A me fa cagare un mondo così. Perché ti fa cagare? A voi piace un mondo... Date via Adinolfi. A voi piace un mondo così? Buonanno contro Tarabella, Parlamento europeo. Il mitico Tarabella, la persona un po' in carne, insomma, no, leggermente deputato in carne. Del PD. Però sì, la notizia non è questa. Posso dire che leggermente in carne? Ma non è che. Beh, però non è che lo qualifica solo il fatto che è un po' grasso. Il fatto è che è un deputato del PSE, cioè socialista belga. Buonanno contro Tarabella, fantastico questo. Senti. Volevo anche aggiungere una cosa igienico-sanitaria. Siccome io faccio il sindaco, Mais est-ce que tous les ploucs vont expliquer leurs amendements? C'est impossible, ça, hein? Tutti vanno a spiegare questo emendamento, è possibile. On sera jamais sorti de l'auberge si tout le monde explique les amendements, faut arrêter, monsieur le président. Non ne usciamo da questa situazione se ognuno interviene sui emendamenti. No, chiudila. No, no, no. Ma chi è che parla? La tabella, il tuo amico. La tabella è sempre il solito rompicoglioni, eh? E tu il rompicoglione. Rompicoglioni, eh? Smettila, sei tu il rompicoglione. Sei tu, ma tu e tuoi amici. Anche te, Sommaro. Posso finire di parlare, eh? Posso finire di parlare? Posso finire di parlare, eh? Vi chiedo di mantenere la calma. Ma chi è che dice di mantenere la calma? Lo so che è lo che presiede la seduta al Parlamento Europeo. Ma ci facciamo conoscere. Beh, veramente. Spettacolare. A voi piace un mondo così? Ma veramente a voi piace un mondo così? ancora buonanno dalla Bella, sentite. Volevo finire una cosa. Le cuffie che ci sono qua, fatele pulire, perché igienico-sanitario fanno schifo queste cuffie. Mandate qualcuno a pulire, sia qui che a Strasburgo, che nella plenaria. Sono sporche. Poi parlate di pulizia. Ancora una cazzata di più, ma smettila! Votiamo! Qui per lavorare e per non chiacchierare. Tarabella, prendi il Valium che è meglio, va, Tarabella. Un po' di Valium. Stress, godzina rannych jest nie wskazana. Tarabella, devi prendere un po' di Valium. Lo stress la mattina è molto nocivo alla nostra salute, quindi mantenete i nervi saldi, comportatevi in modo adeguato durante le riunioni di commissione. Amico mio, ed è quello che presiede. Ma che cazzo ti frega chi è? No, mi interessa, ma non quello è che dice delle cose totalmente assurde. Ma, hai visto? Si stanno scannando, dice, vi prego di mantenere la calma. Ma dai, quello lì è incredibile, scusa. Ma ti prego, fammelo risentire. Ti prego, fammelo risentire, perché è incredibile. La Tarabella che dice, basta cazzate. Eh sì, ha ragione, ma quello è il Parlamento Europeo, ragazzi. A te piace un mondo così? A te piace un mondo così? Vi piace un mondo così? Oh. A me fa cagare un mondo così. Certo. Il mondo così fa cagare. Esatto. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Mafia capitale, affari con Rom, strutture di accoglienza per i migranti, rifiuti, primi interrogatori, solo Panzeroni risponde al GIP, l'indagine punta alla regione. Il Movimento 5 Stelle chiede al Comune di Roma che venga sciolto per mafia, Le Mano si autosospende al partito, il PD nella capitale, partito da rifondare. Renzi alla Camera contro Forza Italia e Lega, noi, dice il Presidente del Consiglio, dobbiamo risolvere problemi creati da voi, il carroccio fa terrorismo mediatico. Il governo mette la fiducia sul Jobs Act al Senato, scontri vicino al Parlamento tra polizia e manifestanti al corteo di protesta di studenti e Cobas. Le indagini dell'omicidio del piccolo Loris, forse ad una svolta, un video smentisce la versione della madre e la procura fa perquisire la casa di famiglia. Dopo trattative e scioperi, accordo raggiunto per le acciaierie di Terni, nessun licenziamento, ci saranno soltanto esodi volontari incentivati. Aiutati dai raid aerei della coalizione internazionale, i Peshmerga curdi hanno fermato l'avanzata degli uomini del califfato a Kobane, in prima linea ci sono le donne, inviate del TG3 le hanno incontrate. Subito, siccome mi dite perché non si parla di Roma, perché non si parla della retata, delle inchieste, accuse gravi ad Alemanno, delle accuse ad Alemanno, tutto quello che volete. Allora, vi dico semplicemente le cose che mi hanno colpito di più, il resto lo lasciamo alle indagini, sì. Che tanto fra due giorni non se ne parla più, come al solito. Vedrai. L'unica cosa certa che esce fuori da questa vicenda a livello politico, questo è un caso clamoroso, sì, vedrai, però aspetta, avrà l'unica cosa certa PD su tutti, vedrai, l'unica vedrai. Cosa certa Letta, che esce fuori da questa vicenda di Roma, di Mafia Capitale, lasciamo perdere questa buffonata dei 5 Stelle di sciogliere il comune che non c'entra niente, probabilmente ci saranno delle ripercussioni sul PD romano, ma quelle sono affari del Partito Democratico. Ma l'unica cosa che esce fuori è che Marino è rafforzato, questo sicuro, cioè perché veniamo da mesi in cui Marino è sotto, è sotto attacco. E adesso Marino, che francamente lui è estraneo a queste cose qui, perché l'ultimo anno le indagini non riguardano la gestione dell'ultimo anno, si può anno dire di tutto ma non questo, esatto, sì. Sicuramente sì. La figura di Marino esce rafforzatissima su questo, e dunque il PD, se si voleva sbarazzare di Marino, mi sa che non è più il caso, o comunque non è più il momento, questo non c'è dubbio. E la seconda cosa, siccome sono coinvolti anche personaggi legati alla giunta Beltroni, beh, la corsa al Quirinale di Beltroni potrebbe essere un po' indebolita. Ecco, l'altra conseguenza politica è questa. Il resto, amici miei, a me mi hanno colpito alcune frasi, ve lo dico subito. La frase che mi ha colpito più di tutti, ma sicuramente avrà colpito anche voi, è la storia dell'immigrazione. C'è poco da fare, dai, su. La frase sull'immigrazione è clamorosa. Cioè, io i soldi veri li faccio con i zingari, con gli immigrati, altro che con la droga. Questa è Buzzi, il cosiddetto socio, il presunto socio di Carminati. Utilizziamo di sempre la parola presunto perché siamo sempre con le indagini. No, comunque, questa è la frase chiave, questa. Quest'anno abbiamo chiuso con 40 milioni di fatturato, ma tutti i soldi li abbiamo fatti su zingari, emergenza alloggiativa e immigrati. Gli altri settori finiscono a zero. Tu c'hai idea di quanto io ci guadagno sugli immigrati? La droga rende meno. Pubblicità, poi Walter da Roma, Roberto da Cosenza, torniamo a una zanzara che non c'è più. Marcello dalla provincia di Udine, ti ricordi quando dicevo tutti gli ascoltatori che dovevano intervenire? Giorgio da Treviso, sì. Raffaele da Napoli. Mamma mia, mi faccio schifo solo a aver fatto sta cosa. Zanzara. La zanzara è il tendone dei fenomeni da baraccone, e ripeto, lo dico con amore. Voglio sentire subito Marcello dalla provincia di Udine. Buonasera Marcello. Buonasera Cruciani. Vai, vai. Senti, senta, io le devo tirare le orecchie a lei. Sì, sì. Sì. Per sì. Quale motivo? Perché, vede, ieri ho ascoltato praticamente l'intervento di un friulano che ha telefonato proponendo Vasco Rossi alla presidenza della Repubblica. Sì, no? Vabbè, uno scherzo. Se vuole anche una puttanata, si può dire sì, quello sì, che... Sì, sì, no, ma su questo possiamo anche essere d'accordo. Allora? Il fatto è che lei ogni volta, e anche ieri sera, quando si riferisce alla zona, diciamo, del Friuli, Udine, sì, casca sempre con il bicchierino, e voi là, Udine, un grappino di qua, di là, insomma, c'è sempre questa guardi, ricorda dello il stereotipo Friuli... del friulano bevone alcolista. Guardi, no? Lei veramente sta parando in maniera del tutto sbagliata. No, il Friuli è la mia, non dico la mia seconda regione, perché no, perché è l'Umbria la mia seconda regione, anzi, io ho tre regioni che mi sono particolarmente... Che mi sono dentro il cuore, sono il Lazio ovviamente perché sono nato a Roma, ma soprattutto la Lombardia dove vivo, l'Umbria che è una parte dove c'è una parte delle mie origini, e poi c'è sicuramente il Friuli tra queste parti. Allora vuol dire che lei però il Friuli lo conosce abbastanza poco. Ma qual è il punto? Ma era una battuta, no, Marcello. No, ma vede, al di là delle battute, ci sono pure un friulano offeso. Cruciani, dai, Marcello. C'è qualcuno che ciuccia qua. Sì. Sono quelli come lei, giornalisti, politici. Noi qua a Zemona ci chiudono l'ospedale, ci portano 30 profughi, ha capito? Ma che c'entra questo? Scusa. Noi qua, no? Abbiamo cominciato a ragionare un attimino, e l'alcol, mi creda, lo stiamo mettendo da parte perché ci stiamo incazzando di brutto. Non ho capito niente, ma ci stiamo incazzando di brutto, Cruciani. Lei, insieme a tutti gli italiani che si permettono di esprimere Paolo Villaggio, cioè tutti con sto ricorrere allo stereotipo del friulano alcolista, basta, avete rotto i coglioni. Qua l'unico che ciuccia è lo Stato, siete voi. No, beh, noi. Ha capito? No, noi non siamo lo Stato. Non giucciamo, noi non siamo lo Stato. Non giucciamo proprio niente, caro. Che servono essere date. Qua in Friuli hanno rubato 3 milioni e 200 mila euro truffando lo Stato con i profughi del CTP di Gradisca di Sonzo. Ma io che c'entro, scusi? I profughi ci chiudono gli ospedali. Ma io che c'entro? La Chiani, il braccio destro di del nostro Presidente del Consiglio, sì, viene qua a leccarci la supposta dicendo che per il bene dell'Italia cosa? Noi friulani qua abbiamo memoria lunga, Cruciani. Ma qual è la... cosa significa leccarci la supposta, per curiosità? Perché noi la stiamo prendendo nel culo. Da tanto tempo, noi la sanità qua ce la paghiamo Ma io che c'entro, scusi? Marcello, ma che c'entro io, scusi? Ci portano qua gli extracomunitari. Ma che c'entro io? E ci chiudono gli ospedali e poi venite qua a curarvi anche. E poi vi permettete di dire che siamo degli accolisti, Cruciani. Ma guarda, non sono mai venuto a curarvi. Ma io non so mai... A trovare la sua amica, quella del foulard rosso. Ma veramente era blu. Ci vengo anche e poi vediamo se mi dà dell'alcolista. A me, che è un anno che non tocca neanche un bicchiere di vino, sai perché? Perché ho capito, sì, che bisogna cominciare a trovare una certa consapevolezza qua, perché qui è ora di finirla. Sì, però questa non è una seduta collettiva per ex alcolisti. Mi sa che lei ha bevuto, però. Scusami, sbaglia anche in questo caso, non ho bevuto un cazzo, glielo dico io. Ma scusi, che vuole venire a fare con me a Sacile? Non ho capito. No, io la vengo la prossima volta, perché vede, noi abbiamo... Ma che vuole venire a fare con me a Sacile? No, la vengo a trovare, magari le tiro un calcio dei coglioni, magari così anche le piace. No, visto che lei è così prestante verso le pratiche sessuali alternative, no? Un bel calcio nei coglioni, Cruciani, così vediamo cosa fa. Rida, vedrà quando se lo becca, perché io la sua faccia la conosco, lei la mia mica tanto. Ma io non ho capito, ma che vuole da me? Marcello, ma la mia faccia quando la trova davanti, mica sa che ce l'ho detto Marcello da Udine. Ma perché mi vuole picchiare? Scusi, che cosa le ho fatto? No, perché lei non si deve permettere di insultare friulani. Ma è impazzito lei, ma è completamente... Come ha ragione, sei pazzo? No, lei non viene a dare dell'alcolista. Ma chi ha detto? Ma lei sta dando la dimostrazione che è un alcolista, lei? Stasera? No, lei si sta sbagliando. È impazzito. Si sta sbagliando. La prova dei capelli, anche se ne ho pochi, la può fare tranquillamente. Ma la faccio, non venga con me. Fare nulla. Venga. Quando lei viene a Sacile la prossima volta, le prometto che la vengo a trovare. Ma lei è di Sacile? Lei è di Sacile? No, io sono di un paese vicino. E a che ne sa quando vado io a Sacile? Scusi. Beh, magari lei lo sappiamo. Insomma, una persona famosa come lei. La pubblicità non manca, insomma. Quando saprò che da queste parti, visto che lei ama tanto il Friuli, magari la vengo a trovare. Ti do un bacio in bocca, Marcello. Anche a lei, con la lingua. In bocca, con la lingua. Con la lingua, con la lingua. E anche una toccatina sotto. No, beh, insomma. Mi sa che non c'è niente là. Mi sa che non c'è niente. Mi sa che non c'è niente là. Andiamo per gradi. Con la lingua, lo proverà quando glielo metto ben dietro. Va. Io e Corona, la veniamo a trovare, io e Corona. Ciao, Marcello, ciao. Ciao. Proviamo a chiamare il Dux, il conducator massimo della... Chi è il conducator? Proviamo a chiamare Gentilini, che dici? No, ma forse sì. Risponderà. Sentiamo. Sì. Gentilini? Sì. Come stai? Sono Cruciani dalla radio. Oh, saluti. Come va? Boh, siamo in caduta libera senza paracadute, caro. Senti una cosa, Gentilini, ma hai visto Salvini nudo in copertina? Mamma mia. Boh, i re sono sempre nudi. Come i re? Anch'io sono stato messo nudo, sai? Come? Che spettacolo terribile. Le persone importanti vengono messe nude. Tu dici che si fanno fotografare nudi solamente i VIP, gli uomini di potere veri, quelli che hanno gli attributi. Ricordati che ai miei tempi dell'università, sì. Quando il tribuno veniva eletto, sì, cosa faceva? Spogliava. Mostrava gli attributi a tutti gli studenti universitari. Che meraviglia. Ma gli attributi che vuol dire? Gli attributi veri? Sì, attributi veri, tirava fuori i coglioni, porca miseria, li mostravano. E ricordati che la civiltà veneta è sempre stata di insegnamento a tutti gli altri. Ma quale civiltà? Senti Giancarlo, il leader della Lega. Ma tutto quanto, quale serenissima? No, aspetta, fermo un attimo. Ma il leader della Lega che si spoglia, no? Si spoglia e va su un settimanale in copertina. Non è un po'... non ti mette un po' a disagio questa roba? No, assolutamente no. Assolutamente no, perché è il grande passato delle statue. Sì. Le statue erano sempre nude. Se vai nelle chiese, i grandi dipinti sono nudi. L'uomo è stato creato da Dio ad immagine e somiglianza. Ho capito, ma un politico. Quindi, ma no, io però è interessante, è interessante. Anche, anche Mussolini mostrava il corpo, no? O no? No, certo. A torso nudo, a quella battaglia del grano, tu dai, ma tu sei giovane, non te che ricordi. Tempi, eh? Che tempi, Giancarlo, che tempi? Tempi, o tempora moris, adesso è un tempo che non so dove andremo a finire. Che tempi, no? E non tornano, eh? E non tornano, non tornano. Non tornano più quei tempi là, sai, della battaglia del grano, qui bisognerebbe fare la battaglia contro il comunismo. Ma beh, adesso non esiste più il comunismo, Gentilini, basta! Non esiste più! Basta il comunismo! Ma non esiste. I milioni di innocenti nella Siberia reclamano ancora. Siamo nel 2014, vendetta. Cazzo, scusa. Ma scusa, io ho vissuto in queste cose. Scusami, Giancarlo, ma questa Lega che adesso è molto di destra, ti piace? Ti piace tantissimo? Certo. Ti piace? Io ho sempre sostenuto che l'Italia è una e indivisibile. Oh, ecco. Però io ho sempre sostenuto che il Sud deve cambiare e deve essere uguale al Veneto. Sì. Quante volte io ho detto ai responsabili della Guardia di Finanza è inutile che voi facciate terrorismo fiscale qua. Sì. Dovete farlo anche nel Sud. Quindi io sono d'accordo con Salvini. Sì. Deve recuperare il sud, il centro-sud. Scusa, ecco. Un attimo, ma questa Lega che viene chiamata fascio leghista ti fa innamorare, ti fa impazzire? Poi quando parli di fasci già è... già godi. Ma che porcheria. Io nel 1938 montavo la guardia alla gioventù italiana del Littorio quando Mussolini è venuto a inaugurare l'aeroporto di Treviso. Per cui figuriamoci, c'è mica da essere da vantarsi di sta roba. Figuriamoci tu questa, no? Figuriamoci no, questa. Io ero ragazzo di quel tempo, no? Ma vabbè, mica c'è da vantarsi, ho capito. Senti, ma tu che cosa faresti? No, io me ne vanto perché c'era ordine e disciplina. Ma come mi vanto? Che ho sempre portato col mio Vangelo secondo Gentilini. Ma quale Vangelo? Ma non c'è da vantarsi. Scusami, Giancarlo, un'ultima cosa, ma coi Rom, tu che cosa faresti con i Rom? No, i Rom devono essere rimandati nei loro paesi di origine. È l'Europa, però. Io ho sempre detto assolutamente, perché anche loro, è una cosa che io censuravo anche la Guardia di Finanza, che devono anche loro presentare la denuncia di redditi, invece no, vivere di espedienti, eccetera. Ma secondo te rubano? Io sono per l'ordine, la disciplina e il rispetto delle leggi. Chi non è in questo, in questo trio va fuori dei piedi. Fuori dai piedi, ma i Rom, secondo te, i Rom sono rubano per loro natura? Ma io sono stato anche in Romania, eccetera. Sì. Vivono di espedienti. Vivono non di espedienti. Certo, come i miei lavoratori, i miei dipendenti, i miei operai, eccetera. Ma se ma sono italiani, Rom. Ma se apre un campo Rom, se apre un campo Rom a Treviso, tu che fai? No, io ho fatto 20 anni di gestione della città di Treviso e non mi è mai passato per la testa di fare un campo per i Rom. Mai. Mai. Se tu incontri un Rom per strada, che fai? Ma lo saluto e gli dico: devi osservare le leggi dello Stato. Punto e basta. Dove c'è la legalità, io sono sempre vicino. Per cui i contributi ai Rom devono essere cancellati? I Rom dovrebbero tornare nei loro paesi, ma se poi sono diventati italiani e tutto quanto, devono lavorare e guadagnarsi la vita come facciamo noi della razza Piave. Ma non c'è la razza Piave. Va bene, ma non c'è la razza Piave. Ma diglielo, Cruciani, però, perché sennò sembra che... razza Piave. No, io non dico razza. Una stirpe eletta. Ma come stirpe eletta? Nel 15-18 ha sparso il sangue sulle rive del Piave, sulle balze del Montello, del Grappa, ha sempre osservato le leggi, è stata sempre bastonata perché noi siamo al primo posto come i contributi, perché la legge fa parte del nostro DNA. Vabbè, comunque viva Salvini e la sua alleanza con la destra, no? Via. Cioè, d'accordo, io sono d'accordo con Salvini. Con l'estrema destra, va bene. Grazie, bene, Giancarlo. Anche l'estrema destra. Abbracci, ciao caro, ciao. Ciao. Attento al DDT, sai? fascismo a gogo, caro Parenzo, fascismo a gogo. I brividi. Hai brividi, hai brividi. Ma ti prego, ti prego, ti prego. Roberto da Cosenza. Roberto da Cosenza, vai Roberto. Buonasera. Signor Cruglia, stasera casco un po' male perché anche io le devo fare una piccolissima tirata di orecchie. Vai, vai, vai pure, vai. Ma no, ma sono più leggero del signore di prima, comunque. Signore di prima chi? Ah, quello ascoltatore. Quello che voleva prenderla a calci, che in alcuni momenti, sinceramente, me lo direbbe anche a me. Comunque, quello che mi dà molto fastidio, che spesso quando espone i suoi concetti, quando si relaziona con gli ospiti, è molto troppo sboccato. Sì, io sono abbastanza volgare, sì, me ne vanto. È perché se capita una volgare, secondo ovviamente la vulgata comune, scusate il gioco di parole un po' simile, ma è così, secondo quella che è, diciamo, il perbenismo. Io sono un po'. Il problema è che a me piace seguire questa trasmissione, però se mi capita una sera che vado a prendere la bambina. Lo so, con sta storia dei bambini, me lo dite in tanti, con sta storia dei bambini. C'è la soluzione Parenzo, che è quella di mettere i bambini fuori dalla macchina e poi partire a 150 all'ora, magari col passeggino fuori, eccetera, oppure quella di mettere dei bei tappi nelle orecchie, oppure cantare una canzoncina, ma i bambini mentre si ascolta un po', come dire, un po' in sordina, così la zanzara magari con auricolari, oppure far sentire qualche parolaccia ai bambini. Tanto guardi, caro Roberto, accadrà, succederà, non si preoccupi. Succede anche di peggio di quello che accade alla zanzara, le posso assicurare, molto molto di peggio, per cui non mi farei troppi problemi. Guardi, se mia figlia fosse in macchina a quell'ora, di solito non è in macchina a quell'ora, le farei ascoltare tranquillamente, ho capito amico mio, ma nella vita uno sceglie, che ti devo dire, se ascoltare una trasmissione oppure non ascoltarla. C'è una grandissima libertà da questo punto di vista. Io sono contento che lei continui ad ascoltare questa trasmissione, l'abbraccio fortissimo e spero che rimanga con noi. Se questo poi veramente non mi sopporta più, pensa che sono una testa di cazzo, pensa che sono uno stronzo. Beh, c'è il famoso, come dire, telecomando, no, perché in macchina uno non ha il telecomando, a casa magari il telecomando anche per la radio, per chi ascolta la radio con il digitale, eccetera eccetera. C'è però la manopola, come ti ha pronunciato, mamma mia, il ditino che fa tic e si cambia canale, si cambia frequenza. Però per quanto è odioso il signor Travaglio, perlomeno quando si esprime. Che c'entra Travaglio, scusi, che Travaglio fa la radio? No, la televisione. Fa un programma alla radio. Non fa un programma alla radio, signor Travaglio. Faceva l'esempio del telecomando. Ha nominato Travaglio, ho capito male? No, assolutamente no, non ho manco nominato, assolutamente. Qui no, la parola Travaglio viene pronunciata una volta al mese quando è tanto. Grazie Roberto. Grazie a lei. Danilo, provincia di Massa, Danilo. Buona serata. Volevo dire che di Salvini se ne fa tanto parlare, ma è sempre la solita musica. In che senso sempre la solita musica? Non mi pare la solita musica, Salvini. Vabbè, 30 anni che dico le stesse cose, fa parte della Lega. In questo caso però, scusi Danilo, devo dire una cosa, uno può contestare Salvini fino alla morte per qualsiasi cosa, ma che sia la stessa musica, ma se che sia la stessa musica della Lega, questo non si può dire, anzi, tutt'altro. Ma come no, Roma ladrona. Poi, ma non mi pare che sia più, no, ma no, bilancio, al contrario, non si dice più. Senato, ma come no? Ma non si dice più Roma ladrona, non lo dicono più, è per questo che... Perché ora aiutano Roma, è vero. Ma no, aiutano Roma, è un altro tipo di Lega, contestabile anche quella, se volete, per carità. Ma bisogna vedere quello che fanno, non quello che dicono. Vabbè, allora Salvini, è sempre la solita musica. Quando devono votare per l'uso delle intercettazioni, nel caso Azzolini, da parte dei magistrati votano contro, salvano Azzolini. Quando devono votare per togliere i vitalizi ai condannati, ma guardi che solo sulla contro, ma sulla giustizia i condannati, perché uno è giusto che lavori nel pubblico, rubi e poi prende anche il vitalizio. Ma sulla giustizia la Lega non ha cambiato molte posizioni. No, ma qui parliamo di 60-70 miliardi di costi della corruzione in Italia, copriamo da soli metà di tutti i costi della corruzione europea. Adesso non sarà mica colpa di Salvini. Parliamo di dinderi, tanti dinderi. Sì, ma se vogliono combattere la corruzione e recuperare soldi, dovrebbero votare in modo che chi sbaglia paghi. Invece stranamente la Lega vota in modo che chi sbaglia continua a sbagliare. Lei dice la Lega ha sempre votato insieme ai partiti che hanno... Guardiamo parentopoli, Salvini è anche un esempio di parentopoli. Lei dice perché ha la moglie, l'ex compagna. La moglie è stata presa a chiamata in regione, ora la compagna è stata presa a chiamata, non con concorso. No, è il contrario comunque. Va bene Danilo, grazie, grazie, a presto, ciao. prego. Ti prego. Ti prego. Prego. Allora, abbiamo con noi un uomo che vuole denunciare il nostro ascoltatore. L'ascoltatore che è intervenuto l'altro giorno alla Zanzara. Il razzista schifoso. Tu lo vuoi denunciare anche tu, Parenzo? Certo, il razzista assolutamente schifoso. È un caso che ha fatto discutere tutta Italia, perché Famiglia Cristiana, come sapete, ha scritto un lunghissimo articolo contro questa trasmissione e ovviamente anche contro l'ascoltatore, anche il Fatto Quotidiano, eccetera eccetera. Il famoso Giorgio da Genova, secondo me si dà un'eccessiva importanza a questo ascoltatore. Comunque le parole sono state molto forti. Emanuele Fiano è con noi, Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a voi, eccoci qua. Allora, io voglio subito chiedere una cosa, però non c'entra niente con questa vicenda. Sì. Lei, esponente del Partito Democratico, oggi il Movimento 5 Stelle, non le faccio dare un giudizio perché sarebbe banale sui fatti, lui di, è di Milano, sui fatti di Roma, anche perché lei è di Milano, ma comunque è un caso nazionale. È un dirigente nazionale del Partito Democratico. Però c'è una richiesta del Movimento 5 Stelle, che è quella di sciogliere il Comune di Roma per mafia. Ovviamente la procedura è complicata, eccetera, eccetera, e non credo che riguardi questo caso. Secondo me è una posizione politica che non ha niente a che fare con, cioè è un modo per stare come se sul pezzo da parte dei 5 Stelle. Però voglio sapere la sua opinione. Secondo lei davvero ci potrebbero essere gli estremi per sciogliere il Comune di Roma, cioè la Giunta Marino? Ma direi proprio di no. Intanto, vabbè, ovviamente stiamo parlando per adesso di fatti che andranno verificati. In secondo luogo, la maggior parte dei reati di cui i magistrati si stanno, o delle ipotesi di reati i magistrati si stanno occupando, riguardano periodo della giunta Alemanno, anche se ci sono degli esponenti del PD che si sono dimessi di questo momento, ma per fatti inerenti il passato. Quindi al momento mi sembra che la cosa dei 5 Stelle, diciamo, sia un gesto di propaganda. Poi ovviamente, ragazzi, prima di sciogliere un comune ci sono le iniziative di accesso dei prefetti, che devono verificare che effettivamente l'infiltrazione mafiosa abbia impedito il funzionamento della giunta eccetera eccetera. Sì, anche secondo me, adesso, per carità, le cose sono gravissime quelle che sono uscite, riguardano un periodo molto lungo in cui c'è questa commistione tra affari. Sto dicendo delle cose banali e mi indigno con me stesso. Sono delle cose scontate, ma talmente grosse. Ma l'hai letta? Sì, bene, l'ho letta, talmente grossa. Sì, ho capito, però chiedere lo scioglimento del Comune di Roma di oggi, NAR. Ho capito, chiedere lo scioglimento del Comune di Roma il comune per oggi, mafia, l'attuale giunta, a cui si può dire follie a 5 stelle si chiamano questo. Allora, lo dico, torniamo io dopo la pubblicità con Emanuele Fiano, perché parliamo di questo caso clamoroso della Zanzara, con l'ascoltatore che ha invitato i Rom ad essere a trasformare i Rom in carne, in mangime per maiali, e qualcuno lo vuole denunciare. Fiano, Parenzo e altri. Per me non vale il gioco, non vale la candela, cioè non, basta. La Zanzara. Lo sai, Davide, che da quando fioccano queste denunce, non parlo di Fiano ovviamente, che è in collegamento con noi, Emanuele Fiano, esponente del Partito Democratico, ma da parte di associazioni Rom, adesso addirittura un'associazione Rom vuole denunciare La Russa, da quello che ho letto, se non l'ha già fatto il solito Zuinisi di Nazione Rom, vuole denunciare La Russa per le frasi che ha detto qui alla Zanzara venerdì scorso, in cui ha detto che i Rom sono culturalmente ladri. Adesso mi pare francamente un'esagerazione queste denunce. Uno si deve prendere, non è il caso della Russa forse, ma uno si deve prendere le responsabilità di quel che dice. Sì, ma questo non c'è dubbio. Il razzismo va combattuto, non va tollerato, non va combattuto con le legnate, va combattuto con la legge. Ma la legge prevede che, siccome per fortuna da noi, come in altri paesi civili, il razzismo è un reato, paghi, capito? Ma io finisci in galera. Su questo sono d'accordo che uno debba rispondere per le cose basta, che dice. Ma quindi, per carità, certo, va benissimo. Dunque, volevo capire da Emanuele Fiano. Il mio dubbio è: da quando ci sono state queste denunce, da quando c'è stato anche il suo intervento, in realtà da prima, io non ho più rimesso. Sa che noi usiamo sempre rimettere le cose in onda, no? Le cose che avvengono alla Zanzara. È una cosa abbastanza normale. L'ho fatto per un giorno, poi mi sono fermato, perché effettivamente la frase di quell'ascoltatore, Giorgio, è molto più forte rispetto a un'opinione politica, anche, come dire, anche espressa in maniera forte, in maniera spregiudicata. La frase era molto chiara, per ricordare agli ascoltatori, cioè lui farebbe dei Rom carne, diciamo, da porco, li metterebbe dentro un termovalorizzatore e dare poi appunto un mangime ai maiali. Allora, la frase era questa, non l'ho più fatta ascoltare. Ho fatto bene a non farla più ascoltare, oppure effettivamente, io dico, la testimonianza dell'orrore, bisogna farle anche sentire le testimonianze, o no? No, io penso di no. Guarda, io. Cioè, io tu sono... pensi veramente, ti do, decidiamoci da tu. Tu pensi veramente che io ho sbagliato a non interrompere l'ascoltatore? Senti, una cosa per volta, no, per seguire il più di un ragionamento. Sì. Io vado schietto, cioè io vengo. Sì, certo, certo. Non ho una storia normale, io vengo da una storia di sterminio. Della mia famiglia paterna sono state uccise 10 persone ad Auschwitz, sono state bruciate. Sì. Sono state gasate e poi bruciate. Quindi io può essere che abbia una sensibilità. No, vabbè, ma questo è legittimo. Diciamo, no, ma quello che di più mi ricordo della storia di mio padre, dei suoi racconti, la cosa che più mi ha sempre straziato è l'indifferenza. Mio padre viveva con i suoi genitori in un quartiere vicino a Palazzo Vecchio a Firenze, in pieno centro a Firenze. La mamma era una signora che gestiva una piccola pensione, era amica fraterna di tutti i commercianti, la drogheria dove andava a comprare il mangiare. Il giorno dopo l'ottobre del 1938, il giorno dopo le leggi razziali, quelli che sorridevano, la salutavano, le regalavano una caramella, le facevano lo sconto, le facevano... Erano diventati indifferenti rispetto... Indifferenti. Allora, secondo me, il razzismo si combatte innanzitutto combattendo l'indifferenza. Sì, però erano altri tempi, Emanuele. Cioè, non è che oggi la comunicazione di alcune cose, il diffondersi delle notizie, non siamo mica nel 38, dove in realtà tutto restava all'interno di una comunità. Assolutamente. Poi non è che io sto dicendo che chi fa ascoltare queste parole appunto è uguale ai nazisti. No, perché qualcuno ci ha paragonato alle radio degli Hutu, dei Tutsi, che durante quella guerra lì, a Radio Mikkelin, cose del genere. Però, scusa, Giuseppe, in altri paesi d'Europa, in questo momento, non in Italia, hai ragione, ma in questo momento, cioè, paesi dell'est per esempio, ci sono dei fatti, oggi mi sono letto tutta una cronaca, tipo pogrom nei confronti di campi rom. In Italia qualche pazzo scatenato qualche volta ha tentato di dare fuoco ai campi rom. Cioè, voglio dire, è evidente che non siamo in quel periodo, però i semi di un fenomeno li devi prendere. Allora, oggi una deputata lettone del partito di governo ha ringraziato i nazisti per lo sterminio dei gay. Grazie a Dio i tedeschi a suo tempo i gay li hanno fucilati. Da allora il tasso di natività sta migliorando. Questo è una frase di una deputata della Lettonia del partito di governo in Lettonia. Allora, siamo però a un altro livello. Questo è un ascoltatore, peraltro anonimo, che si chiama Giorgio da Genova, il quale ha detto una follia, una cosa da pazzi. Ora, francamente, portarlo davanti a un tribunale, non capisco cosa dici, però scusa, leggiamo solo una riga della legge, famosa legge Mancino, quella modificata nel 2006 tra l'altro da un governo di centrodestra, modificata. È punito con un anno, 6 mesi, la multa, eccetera, chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione. Scusa, ma uno che dice, citando il Mein Kampf, un animale se lo addestri cambia, uno zingaro non cambia, sta diffondendo un'idea razziale. Di Ma su questo, su questo non c'è il minimo dubbio. Diamo un esempio, cioè che uno queste cose non le può dire, perché a me molto spesso quando io provo a... in altri casi diciamo analoghi a dire puniamolo, mi si dice ma in Italia c'è la libertà di parola, attenzione, c'è la libertà di parola quasi fino a quando c'è il limite per esempio del razzismo. No, ma io su questo guarda, se ci sono, io sto dicendo semplicemente che bisogna anche distinguere da caso a caso, perché è evidente che se c'è un esponente politico, comunque un qualcuno anche piccolo, che ha delle responsabilità, bisogna è una cosa dare un segnale che quando c'è cose un ascoltatore che interviene dire, questo è il punto. Ma queste cose ho capito, non è che non si devono dire, se c'è qualcuno perché che le pensa è importante anche che vengano fuori. E viene punito. Se lo dici pubblicamente in quel modo, facendo propaganda, vieni punito. Devi sapere che vieni punito da una legge. Voglio andare oltre con Fiano e voglio chiedere a Fiano una cosa, contando sulla sua schiettezza. Secondo te Salvini, che è apparso in questa copertina tra l'altro di oggi a petto nudo, e forse ti ricorda qualcuno a petto nudo, a te Emanuele? Non mi pare una gran bella foto, eravamo stamattina in televisione insieme e gliel'ho detto, guarda, do un consiglio, evita di farti vedere così perché non so se guadagni. No, però ricorda, magari a qualcuno può ricordare anche il Duce, per carità, il Duce non aveva quelle espressioni sul letto bianco con le cose così, però un po' un Duce de Noantri si potrebbe dire a petto nudo, no? O no? No, non si può fare sto paragone. No. Vabbè, ma secondo te Salvini è razzista? Però dimmi la verità, perché quello che pensi, quello devi dire veramente. Secondo me Salvini specula sul razzismo. Vabbè, però è democristiana questa risposta, perché io sono sicuro che dentro di te pensi che sia veramente razzista. No, non lo penso. Penso che ci sia una differenza tra chi? Tra Salvini e Borghezio? Beh, Borghezio penso di sì, per esempio. Borghezio, secondo me, non so adesso, poi lui è cambiato, ogni tanto fa il calmo, ma per esempio quelli di Casa Pound che accompagnano Salvini, penso di sì. li ho visti scrivere. Beh, quello dice, dice sono fascista, è venuto da noi Di Stefano a dire io sono apertamente fascista, sì è vero, mi riconoscono del fascismo. Ecco, tu scioglieresti Casa Pound? Beh, per alcune delle cose che hanno detto... No, per alcune, anni... o lo scioglieresti o non lo scioglieresti, cioè secondo te è un movimento fuori legge che dovrebbe essere messo fuori dalla competizione politica, siccome si presentano alle elezioni e pare che siano alleati anche della Lega, allora uno deve andare fino in fondo con ragionamento se pensa che siano, sia un movimento fascista o razzista o no? Io penso che vadano sciolti tutti i partiti che si rifanno al fascismo. Vabbè, ho capito, dunque... Se e casa... loro fanno... No, se, cioè se tu mi dici, bisogna avere delle cose concrete da dire per sciogliere un partito, siccome loro evitano accuratamente, con intelligenza... qualsiasi riferimento scritto, ah, dici, fanno apposta, cioè, però il capo è venuto qua Di Stefano a dire io sono fascista, questo secondo te è una roba, cioè, che dovrebbe comportare qualche sanzione oppure no? Beh, secondo me in Italia non si può essere fascisti, però loro ti diranno noi siamo fascisti ma il nostro non è un partito di ricostituzione del fascismo, e appunto. Dunque secondo me, rifaccio il discorso che ho fatto prima, cioè secondo me essere fascisti non rientra nella libertà di una persona, poi non lo puoi poter vietare singolarmente, ovviamente se poi tu costituisci, beh, ti faccio un esempio, vicino a Milano, in questi giorni una giunta di un comune intitola una via ad un esponente di allora del fascismo che fu uno dei firmatari del manifesto per la razza, quindi un razzista. Vabbè, ma questa è una follia, chi l'ha fatto? Anche se uno potrebbe dire parte della nostra storia, no? Dunque si può intitolare una via anche a una persona che è stato un protagonista della nostra storia, o no? No, è vero, no, perché non si può fare una via Benito Mussolini? Io appunto non la faccio. Cioè, hai dato del razzista anche alla Biancofiore, tu, ho letto da qualche parte. Che ha fatto sta Biancofiore con i Rom? Io... Ah, no, per l'intervento a Piazza Pulita. A Piazza Pulita, perché l'altra sera è stato un esempio giusto. Scusa, l'altra sera lei è intervenuta sui Rom dicendo i Rom rubano, i Rom hanno tutti, hanno la Mercedes. Cioè, non mi sarei dire cose che poi lei querela, non posso mettere letteralmente. In quel momento stavo guardando la televisione, ma quando uno, non diciamo neanche poi, quando uno comunque dà un giudizio di massa su una popolazione, su un gruppo, come se quelli fossero tutti uguali, quello è il germe del razzismo. Dunque, secondo te è razzista? Ma che l'hai scritto? L'ho trovato pure, sono andato a cercare le tue cose. Sì, se volete, ho scritto un tweet che diceva: se volete sentire una lezione di razzismo, sentite dell'intervento in questo momento della Biancofiore a Piazza Pulita. Cioè, la Biancofiore ha fatto un intervento razzista dicendo che i Rom rubano, ma è vero, rubano, lo dicono anche loro. Ma tu devi dire: questo Rom qui ha rubato. Vabbè. Questo Rom qui è una Mercedes, questo qui è la responsabilità ladro, penale è personale, non è collettiva in questo però, paese. Ragazzi, cioè, non è che ci sia un altro tasso di razzismo, perché è l'ideologia della razza, cioè l'idea che una popolazione solo perché sei nato dentro quella popolazione ti porti dietro una colpa che viene dal fatto. Cioè la russa quando dice che sono culturalmente ladri, secondo te è una cosa razzista? Assolutamente. Beh, sì. Cioè, per cui potrebbe essere. Secondo te un padre Rom, come nel caso del campo nomadi di Roma, davanti al quale ha fatto la manifestazione Casa Pound, che porta i bambini a scuola? Sì, esatto. Quella cosa è controversa, non è detto che volessero bloccare. Non lo so che è controversa, non sto dicendo che gli hanno impedito di andare, sto dicendo un'altra cosa. In cui però si sa, perché lo sanno a Roma, che in quella scuola molte famiglie Rom mandano i bambini a scuola e non rubano per niente. Tu, se dici la frase i Rom rubano, stai oggettivamente, diciamo, mettendo tutti. Vabbè, ma che d'accordo, è evidente che in politica si fanno delle generalizzazioni, lo fanno tutti le generalizzazioni. Quando si dice che i Rom rubano, si vuol dire che c'è un alto tasso Roma, di criminalità nei campi Rom. Questo si vuole dire, e di questo francamente non è che sia un errore. Ma io non ho detto che la frase che ha detto la russa la porterei in tribunale per la legge Mancino, è una cosa diversa, quello è un giudizio politico. Beh, un giudizio politico, tu hai detto che è una frase razzista, per cui teoricamente potrebbe essere messo sotto accusa pure per questa frase, tant'è che è stato denunciato per razzismo, per istigazione all'odio razziale. Quando uno dice sono culturalmente... Se io non ho problemi a dire, quando tu fai una generalizzazione, in particolare fai una generalizzazione negativa su un gruppo sociale, senza differenziare le responsabilità individuali, stai facendo un'operazione razzista. Ma scusa, perché quando... voglio dire, la stessa cosa, i fondamenti del razzismo che c'è stato nel secolo scorso. Poi non è che... La Lega, secondo te, per alcune espressioni che fa, potrebbe essere messa fuori dalla campagna elettorale per alcuni suoi esponenti o no? Alcuni suoi esponenti sì. Dovrebbero essere messi fuori dalla campagna elettorale. In generale no, ma alcuni suoi esponenti... Ci sono stati degli esponenti non di primissimo livello che sui post di Facebook hanno ricevuto anche denunce, interrogazioni parlamentari, l'ho fatta io stesso. Ma l'altro giorno ho fatto un'interrogazione parlamentare per una consigliera non leghista, per una consigliera di una lista civica, ancora non ho capito di quale lista sia, che ha scritto: io i rom li metterei al forno, cioè il forno pronto a casa mia. Sì, sì, ho letto. Va bene, Emanuele, grazie, a presto. Ciao. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La Zanzara. Sono tempi duri, non tanto per noi, ce ne frega niente, Popolo della Zanzara, dopo questo momento di semiserietà con il signor Fiano, assoluta serietà, siamo tornati a parlare di Giorgio da Genova, che dice che Roma vanno messi in un compattatore per farne carne per maiali, mangime per maiali, con polemiche, famiglia cristiana che ci rompe i coglioni, i tribunali che forse ci metteranno sotto processo, eccetera eccetera. Vi faccio un annuncio urbi et orbi. Ti prego. Fra poco con noi la mia candidata al Quirinale. Non lo può fare perché non ha l'età. Valentina Nappi, grande ritorno alla Zanzara. Valenzo, tappati le orecchie. Pinotti. No, pensavo Nappi, fosse Pinotti. La Pinotti, preferisco la Nappi. È diventato un mito per gli ascoltatori della Zanzara. Fra pochissimo Valentina Nappi. Piparoli. No, con una grande novità, perché pare che sia stata a letto con il, lo sai, con quello della, che è andato a fare l'anti-sentinella in piedi a Bergamo, là non so dove. Fra pochissimo. Ah, quello vestito da nazista. Ci sono delle foto con lei a letto con lui. Hai capito quello? Ma non era frocio quello. Non era frocio, tra l'altro. Mi sembrava gay, forse. Ma no, a te piace un mondo così? Ma a te piace un mondo così, dove uno è vestito da nazista per fare va con la... A e te poi... piace un mondo così? E poi va con la Nappi e poi va... A te piace un mondo così? Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Beh, ci vorrebbe un bel confronto Nappi ad Inolfi qualche volta. Nappi ad Inolfi. Ah, no, è questo stupendo, sì. Raffaele da Napoli. Buonasera Cruciani. Vai. Senti, io brevemente, brevissimo proprio, meno di un minuto, vorrei puntualizzare quattro punti. Quattro punti sono troppi, ma mica stiamo qua, alla Camera dei Deputati, amico mio. Ok, dai. Allora, che ne diresti di commissariare forzatamente le grandi città? Ma che vuol dire? Ma tedeschi, finlandesi. Ma quella è una provocazione che ci può stare. Per così poco. È una provocazione che ci può stare, questa qua. Una provocazione che ci può stare. Io personalmente, Giuseppe, io non credo che un esponente politico di spicco di qualsiasi partito, io sono trasversale in questo, non sappia che le magagne, no, non conosca le magagne, i magna magna, diciamo, del loro partito. E sono tutti a formare, diciamo così, una banda bassotti. Vabbè, ho capito, ma no, non si può dire che sono tutti una banda bassotti, capito? Cioè non è così. In questo senso che ancora debbono compenetrare forse tutto il sistema. Compenetrare è un po' ambiguo, un po' ambiguo. Compenetrare. E quindi bisogna arrivare a una norma, diciamo, penale di alto tradimento per il popolo italiano. Poi che la Lega ci faccia le lezioni a dire Salvini è l'esponente europeo verso l'Europa, gente che comprava i diamanti dalla Tanzania, non so, accumulava i diamanti come un'altra banda bassotti, io non lo accetto questo. Grazie Raffaele. Vincenzo, provincia di Como. Vincenzo, vai Vincenzo. Sì, buonasera Cruciani. Mi sembrava dalla voce Mauro da Mantova, mi ero emozionato un attimo. Mauro, chiama una volta tanto, non puoi stare assente dai nostri cuori. Ma lascialo stare, Mauro, cazzo, dai. Ma Mauro, ti prego, ma perché devi istigare? Ma no, ma perché mi manca, ogni tanto mi manca Mauro da Mantova. Ti manca il come mi si manca, dice? Mi manca il colpo di genio, mi manca ma quale colpo di genio? Ma ti piace, ma veramente, io ti vedo. Vincenzo, dai, che fai? Come ti noi, dai. Sì, perché mi prende. Mi manca il colpo di genio, come fai a dire il colpo di genio di un malato mentale come quello lì che dice ti prego, solo cose Mauro, chiama, antisemite? Ti prego, Mauro, mi manchi. Mauro, mi prego un corno. Vi piace un mondo così? Ma vi piace un mondo così? Vai, vi piace un mondo così? Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Abbiamo capito. A me piace tantissimo. Vincenzo dalla provincia di Como, dai. Allora, un appello a tutti i padri, madri che telefonano per rompere le balle questa storia dei bambini in macchina. Sì. Basta, dai, bravo, basta. Bravo, se non siete capaci di educare i bambini, bravo, fate altro. Non fate i bambini piuttosto, o non ascoltate la zanzara. Se no, fate ascoltare la zanzara ai bambini che diventano sicuramente meglio di voi. Bravo, bravo Vincenzo, basta con questa rottura di coglioni, la gente che scrive sono in macchina con i bambini, non sentono le cose, ma allucinanti. Dai, ma come se i bambini prendessero spunto da quello che sentono alla radio, non diciamo cazzate, no, dai, su. Ma che poi gli fanno vedere le cose in televisione che sono pure peggio e non si lamentano, e qual è la cosa assurda? Sì, esatto. Poi magari vanno, si guardano i filmini porno con i bambini che sbirciano, se non se ne rendono conto, lasciano i computer accesi, lasciano i piedi e rompono i coglioni a me, capito? I bambini di 12 anni che portano in macchina, che vengono scandalizzati da quello che dici tu e da quello che dice Parenzo e i vostri ospiti, poi magari si vendono le foto nudi su internet, su Facebook, oppure fanno pompini per una ricarica telefonica. Ma quella è un'altra, quella è un'altra cosa però, cioè, qui si sta parlando della comunicazione. Ora io capisco che qualcuno si possa scandalizzare per qualche parola di troppo, però questa follia che la gente scrive, sono con i bambini in macchina, sono costretto a cambiare stazione perché i bambini sentono delle cose, ma dai, su, non, veramente. Ma, scusa, ma quando tu metti tuo figlio davanti alla televisione e te ne vai fuori di casa, hai fatto peggio. Ma sì, almeno in macchina ascolti con te presente, gli puoi spiegare a tuo bambino quello che succede, quello che viene detto. Ma quando lo abbandoni davanti al tubo catodico, basta, l'hai perso. Grazie, Ludovico. Ludovico Milano, Ludovico Milano. Ciao Cruciani. Pronto? Sì, dimmi Ludovico. Ciao, ascoltami. Mauro, ti prego, ma no. Per la storia dello scioglimento del Comune di Roma. No, scioglimento del Comune di Roma lo propongono i 5 Stelle, ma non succederà. Esatto. Di solito quello che dicono i 5 Stelle non accade. È vero, non accade, però io vorrei dire questo. Il Movimento 5 Stelle propone lo scioglimento del Comune di Roma per il semplice fatto che è un covo di mafiosi, ma non da oggi, da 20 anni molto probabilmente, ed è impossibile che nessuno non si sia mai accorto di niente. Allora, lei sta dicendo una cosa vera, cioè oggi c'è un coro di, la cosa che più mi sconvolge della giornata di oggi è che c'è un coro di politici da destra, a sinistra, al centro, i quali sono dalla parte dei magistrati e dicono forza Pignatone, e dall'altra parte dicono beh sì, una cosa gravissima eccetera, ma fino all'altro giorno dove erano? Che cosa guardavano? Ma questa è la cialtroneria degli italiani. Cioè gli scambi clientelari che avvenivano, che sono avvenuti, avvengono ancora al Comune di Roma con le municipalizzate, le assunzioni eccetera, erano, come dire, davanti, no? Davanti agli occhi di tutti. Poi certo, e ovviamente non è che nessuno poteva immaginare l'esistenza di una cupola con a capo un ex terrorista nero, però è lo stupore dei politici che mi fa incazzare, capito? No, ma guarda, ti ho detto, il nostro è un paese in larga parte formato da cialtroni. Questi sono cialtroni in tutti i sensi, in tutti i posti, in tutti i luoghi, in tutte le situazioni. Quindi io ti sto dicendo questo, mi sono andato a rivedere mentalmente quella che è stata l'operazione Alemanno a Roma. Allora? Tu te la ricordi, visto che sei giornalista? Ma che vuol dire l'operazione Alemanno? Non è stato sindaco di Roma, che ha fatto un'operazione Alemanno, che vuol dire? Cruciani, guarda che Alemanno qua è stato eletto con una parte di voti specifica. Cioè, te li ricordi i fascisti con il braccio destro alzato? Vabbè, ma non è che Alemanno è stato eletto a Roma dai fascisti. Alemanno è stato eletto avranno votato pure i fascisti a fuori di Alemanno. Alemanno è stato eletto a Roma perché evidentemente il suo avversario all'epoca, che era Rutelli, era politicamente più debole per mille motivi. Non è che è stata un'elezione illegale. Fermi tutti! Ludovico, zitta di un attimo, Head out on the highway, looking for è considerata la pornostar del momento. Come ha scritto Dago Spia, figlia di un'operaia e di un artigiano, è diventata in poco tempo l'idolo dei nostri ascoltatori, che addirittura la vorrebbero Presidente della Repubblica, ma forse esagerano, anche perché non ha l'età. Mi ha colpito una sua frase, lo so, Parenzo, mi sono appassionato di questo personaggio, che devo fare? Va benissimo, allora, mi ha colpito una frase bene, intelligente, simpatico. Che ha detto in un'intervista a Lettera 43, se non sbaglio: c'è una donna che le piacerebbe vedere Presidente della Repubblica? Domanda banale, come spesso facciamo anche noi. Risposta: perché una donna? Non amo queste domande implicitamente sessiste. Bellissimo. Se uno fa una domanda: ma chi ti piacerebbe come donna? Ma perché deve essere una donna per forza? Ecco, questo mi ha fatto innamorare di Valentina Nappi. Un'altra frase è questa: tutto dovrebbe essere esplicito, l'implicito nasconde una ben precisa visione delle cose, una ben precisa ideologia. E questo è vero, tutto dovrebbe essere esplicito, chiaro. Valentina Nappi, buonasera. Ciao. Come stai? Bene, tu? Bene, non c'è male. Senti, mi devi rivelare una cosa, però. Nella voce poi c'è anche, allora, molto. Ma è vero che è un fotomontaggio, che sei andata a letto, comunque ti sei coricata insieme a un personaggio che è conosciuto come il nazista dell'Illinois, che sarebbe poi in realtà l'anti sentinelle in piedi, eccetera, eccetera. Com'è che si chiama? Gianpietro Belotti, sì o no? Non è un fotomontaggio. Non è un fotomontaggio. Ah. Sono molto molto contenta di averla conosciuto, di averla conosciuta, perché sì, vabbè. Ma è bello fisicamente, un bell'uomo, fammi vedere. Mi piace questo. Molto, credo che sia un figo della Madonna. Addirittura. Fammelo vedere, sì, come si chiama. Ma scusa, ma non era omosessuale? No. No, vabbè. Cioè non anche si è... se fosse, comunque mi fa. Ma ogni volta c'è una difficoltà di collegamento con Valentina. Valentina, ci sei o no? Sì, eccoci, no, qua, no, non ti sentivo. Allora, come non ho capito. Questo, a te non te ne frega niente, ovviamente, se è omosessuale o eterosessuale, figuriamoci, non è mica un problema, assolutamente. Per cui non ho capito, sto Gianpietro Belotti si chiama, quello che è andato a fare le manifestazioni contro le sentinelle in piedi, ti ricordi, Parenzo? Sì, sì. Allora, ci sono delle foto che ritraggono una signora, la signora Nappi col cappello da nazista o paranazista, quello che è, insieme a lui. Mi pare però un bambolotto di faccia, o no? Non mi sembra. No, Valentina. A me piace. A te piace, ma alla fine c'hai fatto sesso, sì o no? C'è stato tempo, però sabato dovremmo rivederci, quindi. È sabato? L'ospite a casa mia. L'ospite a casa. Ma dove è nata questa unione, questa amicizia, questa conoscenza? Nazista, e poi capite? Allora, si è capito, uno si veste da nazista, va a fare una manifestazione contro le sentinelle in piedi e poi finisce nel letto con Valentina Nappi. Ma uno che deve fare? Abbiamo le stesse idee, quindi diventiamo amici. Ma che facciamoci una trombata. Ma che è successo poi concretamente, Valentina? No, ma non allora, è che mi voglio fare i fatti tuoi, però quando tu posti sta rosicando, Truciani, in realtà. Detto che verso la sua pagina Facebook. Non ho capito, lei ha aiutato? L'ho aiutato in un altro progetto che vedete a breve sulla sua pagina Facebook. E poi? Poi spero in una lunga amicizia, perché mi è davvero davvero simpatico. Ma è successo qualcosa? Cioè come oppure avete fatto? Tu sai, quando sei pettegolo, io ho tutta la voglia di darglielo, ti sto dicendo. Non vabbè, eravamo tu, però, a casa, che tu né mia né sua, che tu e c'era altra gente, quindi non c'era il tempo materiale per trombare, anche perché io ero di passaggio a Milano. Però se eri di passaggio a Milano, sta rosicando, signora Nappi, mi scusi. Dottoressa, vede, dottoressa Nappi, le dico questo, professoressa, signor Cruciani. No, dottoressa Cruciale. Il signor Cruciale per noi è una divinità, la signora Nappi per noi ormai. Il signor Cruciani, secondo me, sta un po' rosicando. No, non sto rosicando, assolutamente. Cioè, gli dispiace il fatto di non essere lui al posto del grande dittatore. No. Scendi in piazza anche tu contro l'omofobia e ti faccio un pompino, ma non è che sia un premio, è un fatto di simpatia. 20, 29, no, però scusa Valentina, 20, il punto 29, fondamentale è che io sono io contro l'omofobia, io sono sono praticamente il paladino dei matrimoni. Che devo fare di più dei matrimoni? Dei matrimoni omosessuali, dell'adozione. Ma in realtà, anziché dare il matrimonio ai gay, abolire il matrimonio. Beh, questo guarda. Cioè, aboliamo proprio il matrimonio. Brava. Facciamo gli unioni civili per tutti. Le unioni civili per tutti, brava, sì, effettivamente sì, potrebbe essere un'idea. Non cambierebbe molto. Beh, sì, perché ci sarebbero meno un rapporto meno vincolante, questo intendi, Valentina, no? Sì, non soltanto. E anche per dare una cultura alla Vabbè, adesso cerchiamo di migliorare sto collegamento. Va, andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità, mamma mia, la pubblicità. Io devo smettere di chiamare la pubblicità, una cosa che odio. Aiutatemi, vi prego, aiutatemi. Poi mettetemi bene in collegamento Valentina Nappi, perché ogni volta con sto telefonino Valentina Nappi, poi non siamo su un set, cioè non sta sul set a girare una scena, è a casa, non so, un numero fisso, un qualsiasi cosa, divento pazzo. Siamo ad alti livelli. La Zanzara. Scendi in piazza anche tu contro l'omofobia e ti faccio un pompino. Ma non è che sia un premio, è un fatto di simpatia, oh. Vabbè, non è che poi sia così facile, cioè, nel senso che... Valentina, sembra che per te fare un pompino sia una cosa normale, cioè sia una cosa, ma sembra, sembra da quello che dici che sia una cosa così che puoi farlo a tutti. Adesso non esageriamo. Non è, quanti, non è che ne farai più di uno al giorno, no? Di igiene, ma beh, al massimo si potrebbe fare col preservativo, ma non è proprio il massimo. No. Una sega si può fare a chiunque, anche se non c'è il test. Anche quello, a chiunque, cioè, ma tu non ho capito, non mi direi mica che ne fai almeno uno al giorno di pompino, no? Magari, dovete il tempo, energie. Energia, tempo, testa. Energia, tempo e testa bisogna avere. No, la testa quella c'è sempre, perché comunque il sesso è una delle... è la più grande passione della mia vita. E che cos'è che manca allora? Gli uomini certamente non mancano, come sai, no? Ma non è vero. Come non è vero? Perché tutti parlano, poi quando si tratta magari di fare qualcosina di diversa... Si mettono paura, diversa. Si mettono paura. Si stancano, sono spaventati o qualche altra cosa. Senti, ma è vero che hai detto una volta che i napoletani ti deludono dal punto di vista sessuale? Mediamente sì. Ma come mai sta cosa? Non lo so. Cioè l'esperienza pratica... No, sul campo ha provato. È un fatto culturale. Cioè? Perché comunque nel momento in cui c'è un'idea di identità, sì, si scopa male. Sì. Ah, beh, cioè quando bisognerebbe scordarsi anche di essere maschio o femmina. Cioè tu dici quando l'identità nel senso tra uomo e donna? Ma in generale anche l'identità di napoletano, quando in generale si cerca di dimostrare qualcosa. Ah, ho capito, che il napoletano pensa di dimostrare di essere virile. Esatto, e il napoletano c'ha proprio questo pallino, il fatto che lui deve scopare da napoletano. In realtà ce l'hanno anche un po' le ragazze napoletane, però i maschi ovviamente lo per cui ti hanno sempre sessualmente un po' deluso i napoletani? Sì, un po' noiosi. Un po' noiosi. Hai anche detto una cosa fondamentale per Parenzo, soprattutto che le misure non sono importanti. Sì, ma chissà. Questa, no, questa, scusami, questa è diffamazione aggravata. Io porterò in tribunale il mio Cruciani, il cosiddetto instrumentum regni, per dirlo alla latina. Diciamo. Vuoi portarmi in tribunale? Mi disturbavo di te a leccarla e quindi... sì, c'è anche io vorrei solo ricordare questo poi andiamo avanti che alle 20:39 questa è la radio comunque della Confindustria, lo dico magari il signor Squizzi è in macchina a un certo punto e sente la signora Nappi che giustamente fa il suo lavoro e propone il suo lavoro è molto più intelligente di un sacco di imprenditori italiani, no, ma dico solo che signor Squizzi accende la radio, diciamo, vediamo allora Jobs Act, ci sono state giornate terribili a Roma, vediamo la mia l'approvazione del Jobs Act soprattutto al Senato. Soprattutto al Senato, che vediamo Jobs polemiche, Act, che è un po', che è un po' simile a Blow Job, no? Signora Nappi, c'è Blow, semmai Blow, blow job. Soffiare. Cioè, perché chiamano il Jobs Act? Allora è meglio chiamarlo direttamente Blow Job, o no? Eccola, vabbè. No, vabbè, però poi è vero, dai, su, dai. Comunque, tu dici Squinzi, quando stai in macchina sente no, per carità, dice vediamo che è successo a Roma, travolta dagli scandali, e sente magari la lecca bene, dice di cosa stanno parlando su questa nostra. Comunque, è vero che le misure non sono importanti, già Nappi? Sì. Non allora, so. Come diciamo che il pene in generale, i genitali o tutto il corpo sono interessanti tanto quanto la forma di una sedia. Sì. Più è diversa la sedia, più è diverso il sedersi. Sì. Beh, è uguale al letto. Quindi in sé la forma della sedia però non è, cioè è rilevante nel modo in cui ti siedi. Sì. Beh, però rendo l'idea. Beh. Sì, però se se la sedia è molto piccola, se la sedia è molto piccola si può stare scomodi. Si sta scomodi. Se la sedia è molto piccola può essere un'opera d'arte. può essere un'opera d'arte, è vero, vedi che c'è sempre una parola giusta che ci frega, Parezzo, non c'è niente da fare, ma questo quindi va bene, ti senti più rassicurato? No, ma adesso io non dico niente, perché fino ad io di queste cose non parlo, se io parlo parlo di altre cose, ma di misure non sono ancora arrivato a livello di una Nappi, forse ci arriverò, cioè nel senso che l'esplicito, no, fino in fondo, però voglio chiedere una cosa su Salvini, riservato in genere, ha visto le foto di Salvini su Oggi? Ho visto fortunatamente la copertina. La copertina, perché fortunatamente? No, dentro è uguale. Dentro potrei tipo disarraparmi a vita. Addirittura. Preferisco non vederlo. Perché? Perché disarraparmi a vita? Cioè potrebbe avere l'effetto di togliere qualsiasi tipo di appetito. Mi disarrapano. Che cos'è che disarrapa? I conservatori mi disarrapano. Vabbè, d'accordo. È una progressista, certo. Sono conservatori brutti, senza... Vabbè, ho capito, però cioè, quella foto là in copertina proprio le fa schifo. Sì. Perché le fa schifo Salvini oppure no. Perché proprio... Cioè, non... Allora, sia la foto in sé, il contesto, la simbologia... Sì. Sì, gli fa schifo anche Salvini. Sì. Preferisco leccare una scella sudata... A chi? Non lo so, stavo pensando quanto sudata, da quante ore. Cioè, è meglio una scella sudata di chiunque, ma non di Salvini. No, questo non lo so. Se no, beh, appunto, questo no. Però, tra Salvini e un, che ne so, qualcun altro della... Sì, preferirei prendermi l'ebola, va? Meglio l'ebola, no! Vabbè, pazzesco, l'ebola, ma si muore di perché l'ebola, cara. Si cura, dice, l'ebola si può curare. Sì. No, vabbè, ma anche come fatto simbolico. E che un rom, tra Salvini e un rom? Tra Salvini, ovviamente un rom. Ma i rom, è fantastica. Ma no, i rom, è una progressista pazzesca, è un simbolo di libertà. Sono molto belli. Sì, è vero, ci sono dei rom. Ma lei è mai stata con un prete? No, assolutamente no. No, non faccio sesso nemmeno con i ragazzi fidanzati, a meno che la ragazza non lo sappia. Ah, è proprio una brava persona. I fidanzati no, a meno che se la fidanzata lo sa, però altrimenti resto sempre sai, la troia rispetto alla moglie. Sì, sì. Invece no, è anche tua moglie deve essere troia. Questo è interessante, però, questo come caro concetto, Squinzi, è un altro principio che abbiamo enunciato nel corso della trasmissione. Sì, no, è vero. E invece ha sentito parlare dell'espressione Lady Like a proposito di Alessandra Moretti del Partito Democratico? No. No, Lady Like, no, vabbè, è un modo nuovo di raffigurare, di dipingere la nuova generazione di donne del Partito Democratico. Ma lei va dall'estetista? Non ci sono mai stata. Mai stata dall'estetista? Beh, come si depila, scusi? Da sola? Sì. Da sola, ma ovviamente lei è una fan della depilazione rispetto al nature, come dire, no? No, in realtà non mi depilo il pub da un anno, forse? Da un anno? Mm-hmm. E per cui qual è la situazione adesso? Comunque devo depilarmi nelle altre parti del corpo obbligatoriamente per lavoro, e quindi comunque sì, mi depilo da sola. E invece lì da un anno niente? No, va di moda in America, a me anche piace, anche ai fini, anche il per pelo, insomma, è molto meglio il pelo. Sì, il pelo è molto meglio. Lei è attento ai dettagli, proprio lei è attento al pelo, caro. Cioè, lei beh, proprio, sì, no? Per esempio questo dettaglio qui è una cosa che... Ma io volevo un attimo interpellare il professor Taormina. Gli odori sono la prima cosa del sesso. Sì, sì, gli odori sono fondamentali, è vero, sì, ma questo devo dire che è vero. No, ma la maggior parte delle cose che dice Anap, io il 90% sono d'accordo. Su Salvini non troppo, io non capisco questo suo rifiutare. Lei, anzi, il contrasto dovrebbe piacerle. Lei che è una progressista, eccetera, eccetera, dovrebbe piacere andare con un scoparsi un conservatore, cioè metterlo in difficoltà, allora, distruggerlo, fargli male. Sì, ma semplicemente quello che accade è che non alza e non si fa nulla. Non raggiunge un'erezione e alla fine non... Vabbè, mica tutti è così. Addirittura se ne vanno. Addirittura, ma perché tutti i conservatori sono mezzi impotenti? È perché davanti a certe pratiche, non dico si spaventano, ma quasi sono contrari, e quindi... Ma quasi. Ma secondo lei perché uno come Salvini va in copertina su Oggi mezzo nudo, con la cravatta verde? Non lo so. Beh, che ne so? Forse lo so, però devo rifletterci. E perché? No, non ci rifletta troppo, poi riflettendoci si dicono cose sbagliate. No, non sono d'accordo, magari riflettendo che non si dicono cose sbagliate. Invece bisogna riflettere, ma lei non mi pare, certo, una... bisogna riflettere. Non mi pare una che riflette troppo quando dice distinto. Perché purtroppo adesso va di moda. Aspetti un attimo che vado. Ah, va di moda andare in copertina, cioè ha fatto una cosa alla fine scontata. Chi è? Professore? Chi è? Sono Cruciani, ciao, come stai? Ui, ciao, bene, bene. Parenzo, ciao. Come va? benissimo. Senti, no, ma volevo capire questa cosa di Grillo che dici. Quando dici di Grillo che vanno bene le espulsioni, eccetera, eccetera. Come vanno bene le espulsioni? Sì, ma sei diventato. Per me vanno benissimo, per me vanno benissimo. Ma come vanno benissimo? Scusa, professore. Io la penso così, che vanno benissimo, perché questa è gente che si comporta in modo diverso da quelli che sono i canoni che si sono dati, le regole che si sono date. Sì. Poi, insomma, se è vero, io non so, ma insomma mi pare che debba ritenersi vero, che queste persone hanno contravvenuto alla all'obbligo di dare questi soldi. Bisogna fare pulizia, insomma, del denaro per poter venire incontro alle imprese in difficoltà. E ecco, io penso che questa sia una cosa molto grave. Bisogna fare pulizia, bisogna fare pulizia. Certo, no, bisogna fare pulizia, soprattutto come dico io, non conta quanti sono i grillini, ma conta che facciano testimonianza di politica seria, corretta. Però io vorrei dirti una cosa, professore, adesso tu ti incazzerai con me come al solito. No, ma ti incazzerai con me. Da quando tu fai il tifo per Grillo, Parenzo, adesso non vorrei dire, ma Grillo è crollato, non vorrei dire niente. Da quando tu fai il tifo per Grillo, Grillo mi pare crollato, professore. Io non so. È caduto in disgrazia pazzesca. Sono importante, sarebbe una particolare importanza che mi verrebbe attribuita, ma naturalmente non è assolutamente così, perché credo. Scusami, professore, hai visto? Nella dinamica politica credo che ci siano state tante, di quelle difficoltà e anche contraddizioni che spiegano. Senti, ti volevo presentare una persona. Scusa, ti posso dire una cosa? Dimmi, ma vediamo che succede quando si vota, perché fino a quando siamo certo, come al solito. Perché sai, tante volte queste cose qua, poi al momento del voto nazionale, perché le cose locali non contano dal punto di vista politico, può darsi che venga fuori invece una grande sorpresa. Un grande risultato. Senti, sono convinto di questo. Ti volevo presentare una persona che si chiama Valentina Nappi, che è una famosa pornostar. Valentina? Ciao. Quel professor Carlo Dormire, professor avvocato Carlo Dormire. Conosci la signora Nappi? No, non la conosco, avrei piacere di conoscerla, ma non la conosco. La signora Nappi ha detto che il suo sogno da bambina, da tanti anni, mi corregga, professoressa, era essere penetrata da tanti uomini di colore in simultanea. Sì. Questa da era bambina, la bambina no, un po' più grande. Doveva essere un po' più grande per forza, altrimenti non sarebbe stato realizzabile un sogno di questo genere. Però se ha questi sogni, io per carità prendo atto. Non so se avete visto, recentemente un'intervista nella quale si dice che non possono, che c'è un'organizzazione che ha dichiarato che non intende assumere persone che non siano gay, a proposito della nota questione. Ma quello adesso che c'entra? Quella è una cosa, vedi, che allora anche lì c'è la discriminazione, perché gli etero non li vogliono soltanto i gay assunti come a fini lavorativi. Quindi voglio dire, tanto per tornare un po' sulla piaga. Vabbè, la nostra questione, sì, però la nostra amica certamente. Tra l'altro è il suo mestiere, quello di prenderne quante più è possibile. Ma no, adesso cosa dice? Non lo so. Non è questo il mestiere. Ma non è vero. Sì, Valentina. Non è quello il suo mestiere, non fa la pornostar. Quindi più film fa e più ne prende, e meglio è. Se poi con una botta sola ne prende 4-5, meglio ancora. Sono d'accordo. Il risultato sia assolutamente. Aspetta, fammi sentire, Valentina. Valentina. Allora, il fatto di assumere soltanto omosessuali è una follia. Potrebbe avere un senso. Per esempio, potrebbe avere un senso. Per esempio, in America molte ragazze cosa fanno? Tengono le scene con i neri a fine carriera. Sì. Per poterla vendere a un prezzo più alto. Addirittura. Questo è razzismo. Allora ho pensato, se potessi tornare indietro e ricominciare la mia carriera, perché di questa cosa quando ho cominciato. Sì. Non ne avevo proprio idea esistesse. Ho detto, se potessi ricominciare a fare una carriera al contrario rispetto alla loro, cominciare soltanto con i neri. Soltanto con i neri, capito, e a fine professore? Carriera vado con i bianchi. Capito, professore? Può avere un senso per. Poi, come niente, pare che sia, pare che noi bianchi ormai siamo ridotti così a straccetti a fronte de, delle, delle dotazioni di quelle che possono, beh, che possono esibire i neri. Quindi io insomma mi compenetro con la sua, non mi penetro, ma mi compenetro con la sua, con la sua il confronto fa molto bene. Ecco, bene. Va bene, il confronto è fenomenale, lo riprenderemo in un altro momento. Vi abbraccio tutti, in particolare Valentina, in fronte. Un bel, io voglio cambiare un bacio in fronte a Valentina Nappi. A domani 18:30. Ciao. Ciao, a domani. Allora, un appello a tutti i padri, madri che telefonano per rompere le balle questa storia dei bambini in macchina. Basta, dai, basta. Se non siete capaci di educare i bambini, fate altro. Non fate i bambini piuttosto, o non ascoltate la zanzara. Se no, fate ascoltare la zanzara ai bambini, che diventano sicuramente meglio di voi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Che non ce la faccio più, io non vi sopporto, è un programma brutto, è brutto. Radio 24, la passione si sente. La zanzara.